Buonasera. Hanno aperto i canili, hanno aperto. Ci sono fai di nuovo, fai, vediamo. Ah, era Karen, eravate assieme tutti e due. Ma comunque non vi preoccupate, non mordono. Buonasera, benvenuti. Io sono molto contento di essere qui, sono molto onorato di condividere quello che il Signore ha messo nel mio cuore. Io sono convinto che quello che andremo a vedere questa sera l'avete già sentito, e questo vi dà un vantaggio, che se non capite a me ricordate quello che avete sentito prima e va bene, perché la parola di Dio, e la parola di Dio porta vita, porta verità. E quando noi capiamo quali sono le verità e qual è la verità della nostra vita, la viviamo meglio e la viviamo veramente, perché altrimenti ci sembra di vivere come in un film. Però voglio leggervi subito da Geremia, il capitolo 18, è una storia che avete ascoltato centinaia di volte. Alzati e scendi in casa del vasaio. Chi è che ha mai visto un vaso come si fa? Io ho preparato un piccolo filmato perché noi possiamo vedere quello che Geremia ha visto, in modo che possiamo capire anche quello di cui stiamo parlando. Lo possiamo guardare assieme? You have searched me and known my heart before I spoke. You knew my every thought. The wonder of your knowledge is far too high for me to understand. You knew I'd leave your side and cower in the cover of the night. But there's no place I could hide from the mercy of your light. Your kindness leads me to repentance. Your grace assures me to trust in you. I could climb up sky or dive down deep where darkest evil lies. I'll never find a place to flee. Your presence is always where I am. You never leave my side. Ecco. Beh, questa è una cosa che probabilmente non è cambiata molto nel tempo. Questa ruota certamente era elettrica, c'era un motorino sotto. Quando Geremia è andato in casa del vasaio, forse c'era qualcuno che la girava a mano, una ruota a pedali. Però il lavoro, la maestria di quello che è successo non è cambiata di molto. È questa, è proprio quella che abbiamo vista. E la parola che Dio ha detto a Geremia, nel capitolo 18, al versetto 2, ha detto: alzati, scendi in casa del vasaio e là ti farò udire le mie parole. Allora io scesi in casa del vasaio ed ecco, egli stava lavorando alla ruota. Il vaso che faceva si guastò, come succede all'argilla in mano del vasaio. Noi abbiamo visto che qua il vasaio ha fatto un vaso che gli è riuscito subito, gli è riuscito bene, però vi garantisco che succede, che può succedere che tu, mentre stai facendo il vaso, crolla l'argilla, si buca, si fa. E questo era quello che Geremia ha visto. Il vaso che si faceva si guastò, come succede all'argilla in mano del vasaio. Da capo ne fece un altro, come a lui parve bene di farlo. E la parola del Signore mi fu rivolta in questi termini: casa di Israele, noi possiamo dire come chiesa di Modugno, non posso fare io di voi quello che fa questo vasaio? Ecco, quello che è l'argilla è in mano del vasaio, voi siete in mano mia, chiesa di Modugno, o come dice Geremia, casa di Israele. E questa è una verità, Ed è una verità che molte volte è nascosta, è celata, perché noi crediamo di avere la nostra vita nelle nostre mani. E noi siamo convinti che siamo gli artefici della nostra vita, che possiamo decidere, che possiamo disporre come andranno le cose e che cosa ne verrà fuori dal nostro impegno, dal nostro lavoro, dal nostro venire in chiesa, da tutte queste cose. Ma qui è scritto chiaramente che il Signore dice: voi siete come l'argilla nella mia mano, e le cose possono andare bene e possono avere un esito bello, un finale positivo, e possono andare anche male, che c'è il bisogno di iniziare da capo. E questa domanda che il Signore fa: non posso fare io di voi quello che fa il vasaio? A me ha fatto pensare come se ci fosse tensione tra il vasaio e l'argilla, che il vasaio volesse modellare, dare una certa forma al vaso, aveva un progetto nella sua testa che voleva fare nelle mani, e l'argilla invece ne aveva uno suo di progetto, per cui voleva prendere una forma. E c'era questa lotta tra il desiderio dell'argilla di prendere una certa forma e il progetto e il piano del vasaio di fare realmente il vaso che aveva in testa. E io ho pensato a come poter illustrare questa tensione, e ho pensato a quando si fanno i panzerotti. Mia moglie è numero uno a fare i panzerotti e io sono deputato a chiuderli e a tagliarli, e quello lo so fare anche bene. Allora, poi quando avanza alla fine, avanzano tutti i ritagli dei panzerotti, avanza anche un po' di condimento, ti viene naturale che non li vuoi buttare, vuoi fare un altro panzerotto. Allora tu prendi tutti i ritagli e li impasti da capo, e lì ti rendi conto che c'è tensione nella massa, e quella massa è proprio dura da lavorare, tu la vuoi stendere, quella si ritira, e devi lavorare un sacco, molto di più di quella fresca, per fare il panzerotto. Alla fine ci riesci, ma hai ottenuto un risultato scarso rispetto al lavoro che hai fatto. Un esempio più da uomini: quando si fa lo stucco per il muro, che tu, tua moglie ti ha detto dobbiamo pittare, 3 anni fa è arrivato il terzo anno che tu pitti, e allora poi devi chiudere i buchi, devi e fai lo stucco con le spatole, va? E a un certo punto, siccome non sei molto pratico, lo stucco ti si secca e tu c'hai ancora i fori da chiudere. Allora ci metti di nuovo un po' di acqua e lo lavori da capo. Non è la stessa cosa. Quello stucco che tu hai rimpastato inizia a fare le palline, e quando lo metti vicino al muro il risultato è scadente ed è deludente. Questa tensione tra il desiderio e il progetto del vasaio e l'argilla che, per conto suo, come la massa di quei panzerotti, non vuole prendere la forma che tu vuoi. E io ho pensato a me stesso, e non è che ho trovato tanta difficoltà a trovare dei motivi di tensione tra quella che è la volontà di Dio e quello che voglio fare io. Non ho dovuto sforzarmi assai. Mi sono reso conto che ci sono realmente tante situazioni dove il Signore mi tira da una parte e io faccio come quello stucco, faccio le palline dall'altra. E così, non credo di essere il solo, però credo che noi a volte viviamo, o possiamo vivere, questa tensione tra quella che è la volontà di Dio per la nostra vita, quello che è quello che Dio ha disposto per la nostra vita, e quello che noi viviamo, quello che si sta realmente realizzando, e quelli che sono i nostri desideri. Ho fatto un elenco di fattori di tensione quando dobbiamo perdonare, per esempio, che leggiamo nella Bibbia, e perdona loro quello che fanno, se no io non ti perdono. Allora là ti viene un poco di tensione, o quando ti devi sottomettere a qualcuno, quando devi dare conto di quello che stai facendo, quando c'è un leader che fai parte di una squadra e facendo parte di quella squadra devi seguire quelle che sono quella che è la visione, quelle che sono le strategie, gli obiettivi, e tu vorresti fare diversamente. Insomma, c'è tensione, e ognuno può aggiungere per conto suo delle situazioni, dei sentimenti che vive. E allora la domanda è: come noi possiamo allentare questa tensione? Come possiamo ritornare a farci modellare in un modo sano e a non prendere quella forma di un vaso tutto, tutto deformato? Beh, per iniziare bisogna capire una cosa, e questo è qualcosa che è duro da capire, non è difficile da capire, ma è duro da capire, nel senso che ci è scomodo e non ci piace, non ci va tanto a genio. Ed è scritto in Romani, al capitolo 9, al versetto 21, e riprende quello che abbiamo letto in Geremia, e dice chiaramente l'Apostolo Paolo: il vasaio non è forse padrone dell'argilla per trarre dalla stessa pasta un vaso per un uso nobile o uno per un uso ignobile? Adesso, per un uso nobile e un uso ignobile, noi lo possiamo immaginare che cosa significa. Sarebbe un vaso che contiene i fiori e un vaso da notte. Questa è la differenza tra un vaso per un uso nobile e uno per un uso ignobile. Però forse qualcuno in mezzo a noi si ricorda che era molto necessario avere i vasi per usi ignobili quando non c'era la fogna. Quindi se tu non avevi un portavaso per i fiori, sopravvivevi. Se tu non avevi il vaso da notte, non potevi sopravvivere. Quindi non si tratta di che cosa è più importante o più bello. Si tratta di un uso o di un altro. Non è il vaso che è nobile o ignobile, è l'uso che se ne fa. Per esempio, diciamo che io adesso sono il vaso nobile che sto predicando, sono qui, vi sto parlando, sono visibile. Ma quanti vasi ignobili hanno pulito la sala, hanno messo a posto le sedie, hanno lavorato perché tutto questo si potesse realizzare in modo eccellente, in modo buono, in modo comodo per noi? Quindi capite bene che noi abbiamo un concetto molto particolare e tutti quanti vorremmo essere un vaso della dinastia Ming piuttosto che di un vaso da notte, però sono necessari tutti e due, ve lo garantisco. Anzi, forse gli ultimi sono di un beneficio più grande. E Paolo, che sapeva bene tutto questo discorso, anche per se stesso, aveva detto: io sono quello che sono per la grazia di Dio. Qui ci sono due verità importanti. Uno, il Signore è il Signore della nostra vita. Il Signore è il Signore della nostra vita. Né tu e né io siamo i padroni della nostra vita. Se tu pensi di decidere, di disporre, di essere autosufficiente a te stesso, lo puoi anche pensare, ma la Bibbia dice qualcosa di diverso. Ci puoi anche credere, ma la Bibbia dice qualcosa di diverso. Puoi anche essere convinto, ma la Bibbia, Dio, dice qualcosa di diverso. Io sono quello che sono per la grazia di Dio. Qui c'è una resa per dire: ok, io mi piaccio. Io sono contento di quello che sono, perché quello che sono lo sono per la grazia di Dio. E qui si è aperta una parentesi per me, per capire da dove sono venuto, da dove mi ha tirato fuori il Signore. Che fine avrei fatto senza di Lui? E oggi, anche se sono quello che sono, è per la grazia di Dio, ed è sempre meglio di quello che sarebbe stato senza di Lui. Il Signore ci ha fatto il dono della vita eterna, ci ha fatto il dono del perdono dei peccati, ci ha fatto il dono della grazia di avere un rapporto e una relazione con Lui. E il Signore ha preso la nostra vita nelle sue mani, e Lui vuole essere il Signore, e chiede a noi di essere l'argilla nella sua mano. E questo crea tensione, perché molte volte, e non credo succeda solo a me, noi vogliamo essere autodeterminanti. Noi vogliamo decidere, vogliamo pensare, vogliamo agire, vogliamo iniziare, sapere anche dove andrà a finire qualcosa. Il problema non è che vaso sei, il problema è che vaso vorresti essere o che vaso credi di essere. Il vero problema nasce quando noi non ci arrendiamo alla volontà di Dio. Perché si rompe l'argilla che gira sul vaso? Perché il vasaio gli dà una forma e l'argilla non è pronta per prendere quella forma e si rompe. E non puoi fare niente, devi iniziare da capo. Non puoi fare niente. Non è che ci metti in app, perché è che andrebbe a comprare un vaso con una pezza? Lo devi impastare di nuovo e lo devi fare di nuovo. Pensate un poco ad Adamo ed Eva. Il loro problema era proprio questo. Loro erano nel paradiso, cioè dove noi vogliamo andare, loro già stavano. E non gli bastava, e non si accontentavano, e pensavano di meritare di più, e pensavano che Dio li avesse privati di qualcosa e che dovevano conquistare qualcosa di più. Ecco la tensione, ecco l'argilla che ha un piano diverso. E tutti quanti probabilmente abbiamo pregato, almeno una volta, Signore, ma perché proprio a me? Ma perché a me? Ma possibile? Tanta gente a me. Io dovevo incontrare Tizio, o a me doveva succedere questo. E ci sono delle situazioni in mezzo a noi che queste per cui queste parole sono adatte e calzano a pennello. Ma quando noi iniziamo a pensare che Dio è in debito con noi, che non ci sta dando, non ci ha dato quello che noi meritiamo, è che noi meriteremo qualcosa di più, di diverso per la nostra vita, che Dio ci sta sottovalutando, allora quando noi entriamo in questo ciclo di pensieri, entriamo in una zona molto pericolosa, entriamo nelle sabbie mobili, entriamo in sabbie mobili, e c'è una lezione nella Bibbia che noi non possiamo sottovalutare, che è la lezione di Giobbe. Adesso io non ve la voglio fare lunga, sono 40 capitoli, però io cerco di farlo molto, molto breve. Giobbe era un vaso nobile, era un vaso che gli andava tutto bene, era potente, era ricco, aveva una bella famiglia, non gli mancava niente, era influente, era l'uomo più potente del suo tempo in quella zona. A un certo momento, e da un momento all'altro, ha perso tutto. Ha perso tutti i suoi beni, ha perso tutti i suoi averi, ha perso tutti i suoi figli, ha perso l'appoggio della moglie e alla fine ha perso anche la salute. Il desiderio di Giobbe era quello di morire. A un certo punto, se voi leggete Giobbe, veramente che fa venire l'angoscia, non è a scherzo. Dice: Signore, ma io perché non ha abortito mia madre prima di nascere? Questo era il sentimento che stava nel cuore di Giobbe. E questo ci dà l'idea un poco di un vaso rotto, ci dà l'idea di un vaso che sta girando nella ruota e non sta andando troppo, troppo bene. E ci sono stati degli amici che sono andati a trovare Giobbe, la Bibbia parla di tre amici che sono andati a trovare Giobbe e per quello che hanno visto sono stati una settimana senza parlare. È così, cioè sono andati, hanno visto Giobbe, hanno pensato no, non è possibile, si sono seduti e sono stati una settimana senza parlare. Talmente era angosciante quello che avevano vissuto. E ci sono delle situazioni dove noi non abbiamo parole. Non abbiamo parole né per noi né per gli altri. E ci sono delle situazioni dove se stiamo zitti è meglio. Perché quando cerchiamo di parlare non serve a niente. Gli amici di Giobbe l'avevano capito, però poi siccome avevano fatto un lungo viaggio e si sono fatti coraggio, hanno iniziato a parlare, hanno iniziato a dire qual era quello che volevano fare, quello che volevano dire. Volevano convincere Giobbe, questo dura diversi capitoli, non è che vai così, lo leggi, lo capito, lo devi andare a leggere un sacco di volte. E volevano convincere Giobbe che quello che lui aveva fatto era la conseguenza del peccato che aveva commesso. Dice: senti, tu dici che sei un bravo uomo, però se il Signore ti ha fatto questo, qualche cosa hai fatto. Non è possibile che... E Giobbe che replicava per tre volte, allora uno, due, tre repliche di Giobbe, dopo di nuovo e di nuovo le repliche di Giobbe, insomma alla fine non lo riuscivano a convincere. E Giobbe ha detto: no, io sono giusto, e quello che ha sbagliato è Dio, che non si è accorto che io sono meglio di voi, e invece di farlo a voi quel che ha fatto a me, lo ha fatto a me. Questo è il libro di Giobbe proprio fino a un certo capitolo. Però a un certo punto c'era un ragazzo, forse il più giovane, che non era, non è nominato fra gli amici di Giobbe, Eliù si chiama, e a un certo punto prende la parola, dice: sentite, io fino a mo' mi sono stato zitto, però mo devo parlare, perché io mi aspettavo che voi diceste delle cose sensate, ho detto, mo parlano le persone, e allora io sto zitto, ascolto, imparo, però non è che è venuto fuori più di tanto, allora io mo devo parlare, perdonatemi, sono il più giovane, ma devo parlare. E quello che ha detto questo ragazzo è sorprendente. È scritto in Giobbe al capitolo 33, al versetto 8. Davanti a me, dice Eliù questo giovane, tu, Giobbe, hai detto, e ho udito bene quelle che sono le tue parole, è scritto proprio così: io sono puro, senza peccato, sono innocente, non c'è iniquità in me. Ma Dio trova in me degli appigli ostili, mi considera suo nemico, mi mette i piedi nei ceppi, spia tutti i miei movimenti. Ecco, io ti rispondo, dice lui a Giobbe, in questo non hai ragione, poiché Dio è più grande dell'uomo. Perché contendi con lui? Egli non rende conto dei suoi atti. Qua non si tratta di dire se è giusto o se è sbagliato. Noi non abbiamo proprio il diritto di mettere in discussione quello che Dio fa. Ma ve lo dico da capo. Non si tratta di pensare se è giusto o se è sbagliato quello che fa Dio. Noi non abbiamo proprio il diritto di mettere in discussione quello che Lui fa. Io ascoltavo qualche settimana fa un programma e c'era la storia di due calciatori, della zona di Napoli, e questi due calciatori erano amici, avevano fatto l'esordio insieme ed erano arrivati ad essere due promesse del calcio italiano, e a un certo momento giocavano assieme, erano molto, molto intimi fra di loro, e a un certo momento uno ha avuto un infortunio e a causa di questo infortunio è stato fermo, non ha più avuto le opportunità che gli spettavano secondo lui, e le stesse opportunità che hanno portato il suo amico a essere un top player. E così uno adesso gioca nel Dortmund in Germania, e l'altro gioca in una squadretta di provincia. E noi la prima cosa che ci chiede, ma perché? Ma come mai? Ma non è giusto? Noi non abbiamo diritto di mettere tutte queste cose in discussione. E noi siamo portati a farci tutte queste domande. Noi siamo portati ad avere questa ribellione. Noi siamo portati, come Adamo ed Eva, a dire: ma perché io non devo andare a mangiare da quell'albero? Anzi, io da quello voglio andare a mangiare. Tutti gli altri non mi interessano. Noi siamo così. Noi siamo così. Ma Dio dice: io sono il Signore e tu sei l'argilla nella mia mano. E questo è l'Evangelo che noi predichiamo. Questo è l'Evangelo che noi abbiamo accettato. Questo è Gesù che è morto sulla croce. Ha detto: ok, inizia di nuovo ad avere relazione con me. Iniziare ad avere di nuovo relazione con Gesù significa a rimettere di nuovo la nostra vita nelle sue mani e fare in modo che Lui guidi e determini la nostra vita. E così, andatevelo a leggere se avete voglia il libro di Giobbe. Giobbe fa un sacco di domande a Dio. E dice: ma perché? Ma come? Io ho fatto questo, ho fatto quest'altro. E alla fine, proprio alla fine, al capitolo 38, il Signore si insustisce. Dice: beh, mo devo parlare io. E non risponde a Giobbe. Non risponde a Giobbe, ma fa a Giobbe delle domande. Questo l'ho trovato strano, però non troppo, perché poi mi sono ricordato delle cose che succedono con me, che il Signore molte volte non mi risponde, ma mi fa delle domande. evidentemente ce l'ha per vizio questo fatto. Allora il Signore rispose al Giobbe e gli disse: chi è costui che oscura i miei disegni con parole senza senno? Non dimenticate che Giobbe aveva perso tutti gli averi, tutta la famiglia, tutti i figli, tutto, la salute, cioè aveva perso tutto e si stava un poco lamentando di questo fatto. E Dio gli dice: chi è che oscura i miei disegni senza senno? Cingiti i fianchi come un prode, io ti farò delle domande e tu insegnami. Dove eri quando io fondavo la terra? Cioè, dove eri quando io fondavo la terra? Cioè, Dio dice a me: dove eri quando io fondavo la terra? E dove ero io quando Dio fondava la terra? E non lo so, non c'ero nemmeno. Allora io ho pensato, se qualche volta ho fatto le domande che ha fatto Giobbe, devo avere le risposte che Dio ha chiesto a Giobbe. E dove ero io quando lui ha fondato la terra? E così continua, cioè, perché poi, cioè, insiste, dice: quando figliano i camosci, tu dove stai? O quando, cioè, ma delle cose assurde che tu dici: ma dove stavo io? E poi c'è qualcosa che mi ha fatto pensare. E dice: perché l'Eterno vede la terra. Dice: adesso noi siamo avvantaggiati, abbiamo il satellite, eppure noi vediamo la terra. Ma non è così, perché se la terra non gira tu ne vedi solo metà. Quando Dio dice: io vedo la terra, la vede tutta, da una parte e dall'altra. E questo mi ha fatto impazzire. A me ha fatto impazzire. Non lo so a voi che sensazione fa, però pensare che Dio guarda la terra e la vede sia da una parte che dall'altra mi fa impazzire, perché è Dio. E come faccio io a dire a un Dio simile, che è il mio Dio, che ha la mia vita nelle mie mani: ma perché stai facendo così? Come faccio io a dirgli una cosa del genere? Eppure noi lo facciamo. E si crea e si mantiene quella tensione. E io ho dovuto pensare alle storie che viviamo, alle difficoltà delle famiglie, alle difficoltà del lavoro, ai lutti, a tutte queste cose che sono gravi, cioè non è che stiamo parlando di stupidaggini, stiamo parlando di cose importanti. E Dio dice: io sono il tuo Signore e tu sei l'argilla nella mia mano. Allora noi possiamo continuare a contendere con Dio. Noi possiamo continuare ad alimentare quella tensione e dire: no, Signore, non è giusto che mio marito mi ha lasciato. No, dico una cosa così. Oppure: non è giusto che il mio datore di lavoro si comporta in quel modo. E non è giusto, lo so che non è giusto, e non è giusto veramente. Però tutto questo non fa che alimentare quella tensione e far strappare il vaso, e far rompere il vaso. O tu puoi dire: Signore, non è giusto, però tu sei il Signore, io sono l'argilla. E questo è quello che Dio ci chiede di fare nella nostra vita. Questo è arrendersi a Lui. Noi non ci arrendiamo soltanto quando alziamo la mano e diciamo: Signore, io ti chiedo perdono dei miei peccati. Magari fosse solo così. Noi ci arrendiamo ogni volta che noi diciamo: Signore, tu sei il Signore, io sono l'argilla e la mia vita è nelle tue mani e io voglio imparare a camminare la strada che mi metti davanti, anche se non mi piace, anche se non la condivido, anche se io farei diversamente, ma siccome quella è la strada che tu mi metti davanti, io lo faccio perché tu sei il Signore e io sono l'argilla. E vedete, l'epilogo della storia di Giobbe è stupendo. È meraviglioso, è qualcosa di incredibile. Vale la pena di leggere tutto il libro e di sbattersi la testa vicino al muro per arrivare a questo punto. Ne vale la pena, ve lo garantisco. Perché? Perché tutta quella sofferenza, tutti quei ragionamenti, tutte quelle cose hanno portato a Giobbe a una nuova rivelazione di Dio. A una nuova rivelazione di Dio. È come se tu stai guardando qualcosa che non hai capito fino a quel punto e poi la guardi e improvvisamente capisci come devi fare e capisci di che cosa si tratta. Perché Giobbe ha detto così. Allora Giobbe rispose al Signore e disse: io riconosco che tu puoi tutto e che nulla può impedirti di eseguire un tuo disegno. Chi è colui che senza intelligenza offusca il tuo disegno? Sì, io ne ho parlato, ma non lo capivo. Fino a quando noi continuiamo a coltivare quella tensione, ad accettare quella tensione nel nostro cuore, ne stiamo parlando del Signore, ma non l'abbiamo capito. Fino a quando noi continuiamo a dire: Signore, ma perché? Ne stiamo parlando del Signore, ma non l'abbiamo capito. Esattamente come Giobbe, uguale. Io ne stavo parlando, ma non lo capivo. Sono per me delle cose troppo meravigliose, io non le conosco. Ti prego, ascoltami. Io ti farò delle domande e tu insegnami. Significa che noi non iniziamo più a dire: Signore, ma perché hai fatto così? Ma perché è successo questo? Ma perché non è successo quest'altro? Ma noi iniziamo a dire: Signore, è successo questo, che cosa ne devo fare con questo? È una grande differenza. Lo stesso è una domanda, ma c'è una grande differenza della nostra posizione, del nostro cuore nei confronti del Signore e dell'opera sua. È tutto diverso. E noi iniziamo a prendere forma, come quel vaso, una forma buona, una forma bella. Ti prego, ascoltami, io ti parlerò, ti farò delle domande e tu insegnami. Ascoltate adesso che dice: il mio orecchio aveva sentito parlare di te, ma ora l'occhio mio ti ha visto. Perciò mi ravvedo e mi pento sulla polvere e sulla cenere. E sapete il profilo che Dio aveva fatto di Giobbe all'inizio del libro, proprio nei primi versetti, al primo capitolo, nei primi versetti, il profilo che Dio aveva fatto di Giobbe, ha detto: è un uomo integro, è un uomo retto, è un uomo che mi teme, è un uomo del quale io sono fiero. Quindi questo non è a che fare con quanto tu ti senti a posto con Dio. Perché Giobbe era, almeno di me, era più a posto. Su questo non ci piove. Però lui dice: io mi ravvedo e mi pento. Perché? Perché aveva capito che lui stava contendendo con Dio l'andamento della sua vita e non ne aveva diritto. L'ultimo punto. Il fallimento è l'occasione per imparare e per ricominciare. Vi leggo di nuovo i versetti di Geremia, al capitolo 18. Alzati, scendi in casa del vasaio e là ti farò udire le mie parole. Allora io scesi in casa del vasaio ed ecco, egli stava lavorando alla ruota. Il vaso che faceva si guastò, come succede all'argilla in mano del vasaio. Da capo ne fece un altro come a lui parve bene di farlo, con la stessa argilla. Non è che Dio ha preso a Giobbe, lo ha cartocciato e ha detto: vabbè, tu non sei, poffo, l'ha buttato. Eppure era rimasto deluso da Giobbe in qualche modo, perché Giobbe ha detto una delle frasi più risonanti nella Bibbia: io so che il mio Redentore vive. Giobbe l'ha detto. E poi dice a Dio: Signore, ma hai fatto bene i conti su quello che mi sta succedendo? Non è che ti stai sbagliando? E Dio non è che ha preso a Giobbe, l'ha impastato di nuovo così, ha detto: no, faccio con un altro. Ha iniziato di nuovo con la vita di Giobbe e l'ha benedetto più di prima. Dio con la tua vita, con la mia vita, nonostante quello che è stato fino a oggi, non ti impasta di nuovo e ti butta via. Questa è la grazia. E io non, questo non lo riesco a capire veramente. Questo non lo riesco a capire veramente. ma l'amore di Dio è capace di iniziare da capo, con quel rottame che c'è, con quel vaso rotto, con niente. Lui è capace di nuovo a fare un altro vaso. Che cosa è necessario che io e tu facciamo? Che ci arrendiamo a Lui, che ci rendiamo disponibili, che iniziamo a dire: ok Signore, il mio matrimonio fino a ora non è andato come doveva andare, ma io lo voglio arrendere a Te. Ok Signore, la mia vita fino a ora non è stata quella che doveva essere, perché io da Te mi aspettavo un'altra cosa e Tu mi hai deluso, Signore. Lo possiamo dire. L'importante è che poi diciamo: Signore, io ho sentito parlare di Te, ma non ho capito niente. Ti prego, aiutami a capire che cosa devo fare. Ti prego, aiutami a capire dove mi vuoi portare. Prendi di nuovo la mia vita e inizia da capo. Altrimenti noi continueremo a girare su quella ruota e a girare a vuoto, a girare inutilmente, senza raggiungere nessun tipo di successo e nessun tipo di risultato. È sorprendente la grazia di Dio, è sorprendente il suo amore, è sorprendente la possibilità nuova che Lui ci dà, e noi possiamo continuare ad alimentare la nostra tensione, la nostra angoscia, il nostro dolore, o possiamo arrendere a Lui tutto questo e dire: ok Signore, io non lo capisco, però lo voglio mettere nelle Tue mani, voglio che Tu inizi da capo con la mia vita, con questa situazione, con quello che sto vivendo, perché io sono l'argilla nella Tua mano e Tu sei il vasaio. Non sono io che devo determinare, che devo scegliere quello che voglio, ma io sono pronto ad accettare quello che scegli Tu per me. Io sono pronto a lasciarmi guidare da Te e a fare quella che è la Tua volontà. Questo spegne la tensione e questo ci permette di iniziare da capo, e questo permette a Dio di iniziare da capo, che è molto più importante. Perché forse noi tante volte abbiamo detto: mo basta, da domani faccio e dispongo. Proviamo a dire questa sera: Signore, da adesso io mi metto nelle Tue mani e voglio che Tu mi guidi e mi insegni la via che devo camminare, perché questo farà la differenza, questo permetterà a quel vaso di prendere forma e di diventare un vaso utile per il servizio e la gloria di Dio. Vogliamo alzarci in piedi e pregare? Signore Gesù, io ti voglio ringraziare per l'amore che Tu hai per me. Ti voglio ringraziare per l'amore che Tu hai per noi. Signore, troppe volte io mi sono ribellato e ho resistito alla Tua volontà. Ma io Ti prego, Signore, di continuare a parlarmi, continuare a prenderti cura di me, affinché sempre, sempre più io possa capire dove mi stai guidando per realizzare la Tua volontà. E così io Ti prego per ognuno di noi questa sera. Signore, Tu conosci tutte le situazioni difficili, Tu conosci tutte le situazioni dolorose, Tu conosci tutte le delusioni e le amarezze che ci portiamo in cuore. E questa sera, Signore, noi le vogliamo arrendere a Te, senza chiedere più giustizia, la nostra giustizia, ma chiedendo a Te di darci grazia con quello che stiamo vivendo, con quello che abbiamo vissuto, di essere di nuovo nelle tue mani, per essere da te modellati, per essere da te guidati, per essere servi tuoi, per dare gloria al tuo nome. Signore, io ti voglio ringraziare perché tu non butti via nessuno, Signore, ma sei pronto a rimettere ognuno in gioco, e di questo io ti ringrazio, e per questo ti do ogni lode e gloria. Grazie Gesù. Amen.